Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Con queste note di Vivaldi iniziamo l'incontro di oggi. Vi spiegheremo poi perché. L'incontro di oggi è con Monsignor Franco Buzzi. Buongiorno Monsignor Buzzi. Buongiorno. Dottore. Monsignor Franco Buzzi è il prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Un sacerdote che ha fatto la sua carriera all'interno della Chiesa e che oggi incontriamo soprattutto perché è un imprenditore culturale. È a capo di una delle maggiori istituzioni culturali milanesi, ma anche italiane, possiamo dire. Poi vedremo la Biblioteca Ambrosiana che cos'è, ma io comincerei dalla persona di Monsignor Buzzi. Come nasce questa vocazione sacerdotale e culturale? È una vocazione culturale che è nata insieme con una vocazione più profonda, diciamo, quella di essere annunciatore del Vangelo di Gesù Cristo, che mi ha portato a sondare la profondità dell'animo umano e quindi a interessarmi fin da ragazzo ai problemi relativi al sapere filosofico, soprattutto filosofico, teologico, con Sant'Agostino. Quindi conosci l'anima, conosci Dio, conosci il mondo. Questi sono gli argomenti che mi sono sempre stati a cuore. Quindi è un professore di filosofia, lei ha abbracciato la filosofia fin dall'inizio, ha cercato di studiare, di appassionarsi alla filosofia ed è stato professore di filosofia. Sì, diciamo che dopo gli studi di teologia presso la facoltà teologica dell'Italia settentrionale qui a Milano, ho frequentato la facoltà di filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma e mi sono perfezionato nell'idealismo tedesco presso l'Università di Monaco di Baviera. Quindi studi di filosofia e insegnamento di filosofia sempre in ambito... Diciamo pure in ambito ecclesiastico, perché ho insegnato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sono stato invitato alla Pontificia Università Gregoriana tenendo corsi speciali di teologia fondamentale aperti alle due facoltà, teologia e filosofia. E come si è avvicinato poi all'Ambrosiana, alla Biblioteca Ambrosiana di Milano? All'Ambrosiana si entra per cooptazione, cioè è il collegio dei dottori che chiama qualche esperto, qualche competente in un campo particolare. E questo è successo ormai 17-18 anni. Ecco, collegio dei dottori, spieghiamo che cos'è innanzitutto. La Biblioteca Ambrosiana è un collegio dei dottori, nel senso che Federico Borromeo, ponendo la prima pietra nel 1603 e aprendo al pubblico questa istituzione nel 1609, non volle semplicemente un deposito di libri, ma un centro di mediazione culturale, espresso dal collegio dei dottori. Sono dei competenti per ambiti diversi che si occupano di un sapere scientifico da comunicare a coloro che frequentano o comunque coloro con i quali restano in rapporto in tutto il mondo. Quindi un centro che diffonde la cultura. Di diffusione. Ecco, lei ha detto 1609, quindi sono 400 anni. Esattamente, tra il 2009 e il 2010 pensiamo di celebrare alla grande questo. Sì, state celebrando questo 400esimo anniversario della fondazione dell'Ambrosiana. Fondata, mi diceva, da Federico Borromeo. Fondata da Federico Borromeo, quindi il grande cugino di Carlo Borromeo, nei confronti del quale gli ebbe sempre un rispetto, una grande riverenza, perché era il santo, insomma, è diventato santo nel 1610, quindi anche qui un altro centenario in fondo. Quindi una biblioteca nata appunto dalla tradizione ambrosiana, ha qualche, diciamo così, aneddoto, ricordo che tramandato della fondazione, appunto già ricordava questa volontà di Federico Borromeo di farne un'istituzione che propagasse la cultura. Perché ha voluto un'istituzione di questo tipo in quell'epoca? In quell'epoca il grande problema era rappresentato ancora dal protestantesimo che premeva lungo l'arco alpino. E quindi c'è una certa impostazione controversistica dell'argomentazione teologica, cioè controversistica vuol dire loro sostengono A, noi sosteniamo B e dimostriamo che A non è sostenibile. Ecco, questo atteggiamento apologetico, controversistico, però è molto temperato nel caso del cardinale Federico Borromeo, a motivo della sua formazione, una formazione umanistica universale che l'aveva portato a scoprire la bellezza di tutte le culture. E quindi non solo degli ambiti di ricerca umanistici piuttosto che scientifici, ma anche delle culture esotiche molto lontane da noi, quindi la ricerca delle lingue antiche, la volontà di studiare anche alfabeti di cui rimangono pochi rimasugli. Questa apertura è veramente senza limiti. Perché... Ecco, quindi si può dire che la Biblioteca Ambrosiana non è una biblioteca cattolica in senso stretto. Cattolica nel senso etimologico, letterario del termine, cioè universale. Universale, quindi che è interessata a tutte le espressioni culturali, perché tutte le espressioni culturali sono espressioni della persona e quindi in quanto tali sono espressioni di una persona che è creata da Dio e quindi si riconduce un po' all'unità. Lei dice perfettamente, cioè in fondo è il presupposto che noi con una parola grossa diciamo il presupposto antropologico, che ci rende tutti uguali dal punto di vista della provenienza e del fine. Allora, essendo tutti sulla stessa barca, comunque, siamo già predisposti a un incontro, a un dialogo. Quindi, anche se la biblioteca necessariamente è un edificio, possiamo più pensarla come a un ponte, a qualcosa di aperto, a qualcosa che vuole dialogare anche con l'esterno e che vuole accettare dall'esterno dei contributi anche diversi da quelli, diciamo così, strettamente ortodossi. Beh, tant'è vero che il nostro cardinale arcivescovo Dionigi Tettamanzi ha voluto uno statuto particolare, cioè ha promulgato lo statuto della cosiddetta Accademia Ambrosiana. Devo spiegarmi. Noi siamo biblioteca, pinacoteca e Accademia Ambrosiana. Questo significa che 7 classi di ricerca sono istituite presso la nostra sede. 7 classi vuol dire italianistica, mondo greco-latino, il mondo dei padri della Chiesa, greci e latini dei primi secoli dopo Cristo. Poi abbiamo la slavistica, dal paleoslavo della Bulgaria fino alla Russia, insomma le grandi letterature del Novecento russo. E poi abbiamo anche l'Ancien Régime, recuperando quanto aveva già fatto l'Accademia di San Carlo, un'accademia per il Medio Vicino Oriente con arabistica, giudaistica, armenistica e siriaca, e l'Accademia dell'Estremo Oriente con i 3 grandi universi, Cina, Giappone e India, slarghi sul Vietnam, la Corea e il Tibet con tutta la sua letteratura. Quindi un centro di ricerca che è un centro di aggregazione di persone che seguono queste problematiche, ma che, come ricordava, comunque è anche una pinacoteca e una biblioteca, quindi aperta al pubblico. Forse rapidamente poi ci fermiamo un attimo, ricordiamo qual è uno dei motivi per cui una persona può andare a visitare l'Ambrosiana o deve andare a visitare l'Ambrosiana. Senz'altro la Pinacoteca, perché la Pinacoteca ha un'esposizione di 400 quadri stupendi, tra cui Botticelli, Tiziano, Caravaggio, Leonardo, Raffaello, la Scuola di Atene, questo cartone unico, grandissimo, che tutti ci invidiano perché di quelle di proporzioni, dimensioni non esiste al mondo. Incontri. Bentornati, bentornati ai nostri incontri. Buona domenica, siamo con Monsignor Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, e l'abbiamo introdotto con una musica di Vivaldi. Cosa le ricorda Vivaldi? I bei tempi in cui studiavo musica, solo 9 anni, perché un musicista studia tutta la vita, io non sono un musicista, però la mia formazione in pianoforte e organo mi ha portato ad apprezzare soprattutto il barocco, l'età di Vivaldi, di Bach, di Albinoni, dei grandi veneziani. Ecco, la grande scuola musicale, parlavamo prima quando ci siamo poi fermati delle grandi opere della Biblioteca Ambrosiana, della Pinacoteca Ambrosiana, Raffaello, Leonardo. Torniamo un attimo su queste grandi opere. Guardi, dal settembre del 2009 abbiamo inaugurato l'esposizione del Codice Atlantico, che è una dei grandi tesori dell'Ambrosiana. In assoluto, perché questo Codice Atlantico, perché innanzitutto Atlantico, tanti pongono questa domanda, è semplicissimo, in formato Atlantico, cioè grandissimo, quello utilizzato per gli Atlanti. Ecco. Quindi non c'entra con l'oceano, c'entra con le dimensioni dell'opera. Sì. Ecco, questo patrimonio era conservato in 12 grossi volumi, Si tratta di un totale di 1119 fogli, quindi 12 volumi contenenti l'uno circa 100 fogli. Queste condizioni di conservazione erano piuttosto difficili perché offrivano delle difficoltà. Facendo scorrere le pagine le si sottoponeva a una tensione meccanica che poteva anche danneggiare, diciamo, il contenuto del disegno di Leonardo, certo, su carta più sottile. Ecco allora la necessità di sfascicolare. Sfascicolare vuol dire togliere foglio per foglio con il suo supporto, quindi parliamo dei fogli di disegno di Leonardo inseriti in un supporto, vuol dire un cartoncino più pesante, togliere questo cartoncino foglio per foglio e poi provvedere a una nuova disposizione. Quindi esporle una per una queste con la possibilità questi fogli. Di esporle una per una, perché capisce, 12 volumi, se apre un volume su una pagina il resto non lo vede, certo, e poi non si possono prestare 100 fogli di Leonardo. Quindi avete cominciato a esporli una per una in rassegne che andranno avanti nel tempo, però. Sono delle mostre organizzate tematicamente. Finalmente è possibile con la sfascicolatura accostare i fogli che sono tra loro imparentati per via di tema. Fin qui non era possibile, un foglio si trova nel dodicesimo, l'altro nel primo, l'altro nel quarto, non era possibile accostare, date le dimensioni atlantiche dell'oggetto, non era possibile accostarli. Quindi avete diviso questi fogli, che però resteranno tutti all'Ambrosiana. Assolutamente. Non avete intenzione di venderli. Non è possibile. Non è possibile. Ecco, si parla spesso dei musei, delle opere che espongono. Lei ha detto sono 400 opere esposte alla Pinacoteca. Avete anche molte cose in cantina, probabilmente, sì, che non riuscite ad esporre. In magazzino abbiamo 2000 e oltre quadri, che in parte sono bisognosi di restauro, in parte sono già in buone condizioni e che dovrebbero essere mostrati, perché si conserva in vista anche della fruizione, insomma, no, non è, si conserva semplicemente per conservare. Quindi avete un'intenzione anche di riportare un po' alla luce il vostro magazzino? E guardi, questa è un'esigenza importante. C'è qualche opera che avete restaurato recentemente? Sì, senz'altro. Per esempio la Vergine delle Rocce del Vespino è stata restaurata dalla professoressa Pinimbrambilla, così come anche un affresco stupendo in quella che oggi si chiama l'Aula Leonardi, è un affresco dell'Uini che rappresenta la Congregazione della Sacra Corona, una congregazione per le opere pie formata da farmacisti e medici attorno al 1400-1500, raffigurati dalla Luini sulla parete. Quindi anche un museo come l'Ambrosiana cambia, quindi il visitatore che l'ha visitato un anno, se torna un anno dopo, può trovare qualcosa di diverso. Sicuramente, perché diremmo che sono quattro le mostre all'interno di ogni singolo anno, in quanto i disegni possono rimanere esposti solo 3 mesi, dopodiché devono rimanere a riposo, quindi senza luce, perché la luce è sempre un fattore piuttosto problematico per la grafica, devono rimanere al buio per 3 anni. Quindi c'è anche una necessità di conservazione, quindi l'esposizione così un po' diciamo periodica è dovuta anche a necessità di proprio di conservazione delle opere. Sì, e ci sono anche delle regole ferree abbastanza, insomma, seguite in tutto il mondo. Ecco, all'interno invece della biblioteca, in quanto tale, quali sono le opere? Sa, su 1 milione di libri, diciamo che c'è di tutto. C'è di tutto, però 850.000 antichi, quindi vuol dire libri che vanno dal 1500 al grosso modo al 1800, molto importanti perché ci consentono di ricostruire l'insieme dell'età moderna, sostanzialmente dai primi inizi dell'età moderna fino al romanticismo. Questi libri sono collezioni che riguardano campi diversissimi tra di loro, a tutto campo, cioè filosofia, teologia, scienza del diritto, piuttosto che teorie politiche, compendi di estetica, c'è un po' di tutto. Ma lei dorme la notte pensando di essere il custode di questi tesori? Guardi, io dormo su guanciali d'oro, diciamo, perché il mio appartamento è al quarto piano sopra la biblioteca, quindi mi sento molto confortato. Ma se sente qualche piccolo rumore, non... Ci sono delle sicurezze, siamo molto ben difesi. Sì, capita anche qualche allarme ogni tanto, ma insomma Siamo garantiti da questo punto di vista. Ecco, Monsignor Buzzi, io farei una piccola escursione fuori dall'Ambrosiana e anche l'assistente ecclesiastico dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, quindi ha un rapporto anche col mondo economico, col sistema economico, con chi in questo mondo economico ha una responsabilità di gestione delle imprese e così via. Cosa avverte, quali segnali avverte, avvertito in questi ultimi mesi dalle persone che lei frequenta correntemente in una situazione che sicuramente non è tra le più tranquille da un profilo economico e sociale? Ma guarda, una grande attenzione, diciamo, anche all'ultima enciclica del Pontefice, quindi la Caritas in Veritate, che mette, come sempre nel Magistero Ecclesiastico, al centro la persona e quindi interpreta l'economia in funzione di un benessere che deve essere il benessere di tutti, dei singoli, ma insieme con gli altri, perché il bene comune è appunto il bene di ogni persona insieme con tutte le altre persone. Però l'economia è fatta anche di interessi, si dice che il motore dell'economia sia l'interesse privato. Certamente una impresa non è un istituto di beneficenza, quindi l'idea del profitto deve essere comunque sempre presente, ma un profitto che va un po' anche considerato nel da dove e verso dove, cioè con quale finalità e con quali modalità viene costituito. E qui entra tutto quel discorso anche di un'attenzione etica che i nostri imprenditori cristiani avvertono da sempre, insomma. Qui c'è una sensibilità, una ricerca anche di motivazioni etiche all'interno dell'impresa. Necessariamente. Ciò non fa che il bene dell'impresa, non nel senso di quell'etica posta come etichetta accanto a un'impresa che fa semplicemente gli affari suoi e poi dopo si enuncia come impresa. Cioè che adotta alcune procedure che possono essere di correttezza formale. Correttezza formale, ma non sostanziale. Non sostanziale. Quindi, se si mette al centro la persona, per esempio, abbiamo un principio etico che non è trascendibile, no? Quindi tutte le volte che viene messa in discussione la persona dal punto di vista di una mortificazione della sua dignità, e qui non c'è etica che tenga come etichetta, insomma. Ecco, in una città come Milano, questa in una città che è dinamica, sicuramente ancora imprenditoriale, sicuramente ancora con molte attività finanziarie, di comunicazione, e comunque si avverte anche l'esigenza di una riflessione sulla persona, al di là appunto delle formalità quotidiane. Noi diciamo che in questi ultimi anni abbiamo intrapreso parecchi anche congressi e convegni internazionali su queste tematiche, svolgendoli a Milano ma anche in altre parti, per esempio anche a Loppiano l'ultima volta eravamo presenti e abbiamo avuto qui ospiti un po' da tutto il mondo, quindi abbiamo trattato la questione dell'etica, dell'ambiente, impresa ed etica. E poi la questione delle tecnologie anche applicate all'interno dell'industria in rapporto alla questione della vita, cioè abbiamo sviluppato tematiche ampie in rapporto anche al problema dell'immigrazione, insomma il lavoro, tutto questo sempre considerato sotto il profilo della valorizzazione della persona. Ecco, e forse in questo può aiutarla il fatto di essere a contatto con la bellezza dell'arte, la bellezza della cultura, per portare questi valori che sono in fondo valori secolari, valori che trascendono il tempo, a rendere un po' più concreto e un po' più pieno di significato anche il tempo attuale, che è un po' confuso, un po' complicato. Ma guardi, le dirò, nell'un senso e nell'altro, nel senso che la cultura e la bellezza possono offrire effettivamente motivazioni alte e ci portano a trascendere quello che è la sensibilità del momento. E d'altra parte però anche tutto ciò che è cultura e bellezza non vive senza un fondamento economico. Da questo punto di vista io stesso volli che fosse istituita questa fondazione Cardinale Federico Borromeo per sorreggere, sostenere l'Ambrosiana in tutti i suoi progetti culturali. Ecco, in fondo anche il cardinale Federico Borromeo era un cardinale di una famiglia ricca e quindi ha messo a disposizione le sue ricchezze, oltre che il suo potere in un certo senso ecclesiastico, per fondare delle istituzioni che poi, come abbiamo visto, rimangono nel tempo. Quindi in fondo la ricchezza usata bene è una ricchezza positiva. C'è diciamo la carità della cultura, se vogliamo, no? La carità della verità, la carità dell'incontro per il bene. Pensi ai risultati di questi studi accademici, non sono soltanto teorici, astratti, ipotetici, ma poi hanno anche delle ricadute sulle persone che frequentano, ma anche sulla società più in generale. E Monsignor Buzzi, prefetto dell'Ambrosiana, però non si dimentica mai di essere anche un sacerdote e un parroco. Per me è importantissimo, non ho mai trascurato il ministero e sono fiero di poter essere sempre presso qualche parrocchia, ormai da 18 anni sono presso la parrocchia di San Gregorio Magno qui a Milano. A me piace incontrare la gente, avere un colloquio normale, semplice, cioè stare in corsia. Ecco quello che come io... fa a dare una speranza a una persona che non dico che può essere, sì, incontriamo anche molte persone che possono essere disperate, che cercano una speranza. Basta la parola? Occorre sempre guardare oltre, guardare avanti, perché se guardiamo la vita di Cristo è segnata da un fallimento totale con la morte, ma la morte sua sfocia in quella risurrezione gloriosa che dà ragione a tutto quello che gli ha compiuto, no? nella sua sofferenza. Quindi una grande speranza nell'uomo, una grande speranza appunto che l'uomo possa essere, andare anche al di là del tempo, della propria presenza terrena, una grande speranza anche nelle altre persone che incontriamo quotidianamente, dandole un po' di senso di bellezza, di senso di cultura e magari anche di senso di prendere la vita un po' con leggerezza, come magari viene dalle note di Vivaldi che hanno iniziato questo nostro incontro, e che se il signor Buzzi ha qualcosa da aggiungere ce lo dica pure, se no diamo spazio alla musica. Guardi, con fede e con umorismo, perché l'umorismo ci aiuta molto a distaccare. Un po' di senso dell'umorismo non guasta mai. Grazie Monsignor Buzzi, grazie a quanti ci hanno seguito, buona domenica a tutti. Ringraziamo Peter Bascapè in regia e Anita Panizza in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.